Ritengono loro stessi che l'ultrasinistra in queste condizioni c'ha pochi latrati, tanto per parafrasare qualcuno che giustamente ha detto cani sciolti, non in senso dispregiativo, ma in senso di branco al vento. Ecco. Vabbè. Cioè, ok, siamo d'accordo su certe cose. No, adesso ti è caduto un mito. No, non è che mi chiariamo certe cose, Francesco. Non è che sono venuto a chiederti delle cose. No, sono venuto a chiederti stasera. Perché voi che eravate all'avanguardia però non lo siete più rispetto a quelle cose? Ma lì, ecco, no? Voglio sapere che cosa significa essere all'avanguardia. No, un momento. Cioè rompere il culo a certa musica, canzonissima, vi discorrendo, no? Ma questa è stata rotta, non c'è più canzonissima. Oh, vabbè, appunto. E no. Guarda che non l'hai determinato tu questo, volevo, sta tranquillo. Esatto, vabbè, volevo chiarire queste cose qui. Non è che io sono dall'altra parte della barricata. Oggi Massimo Ranieri certo. fa molto di più, fa Napoli, chi parte e chi viene, di Raffaele Viviani, tanto di rispetto. No, dico, certe cose siamo anche su d'accordo. Regia di Padroni Griffica, non credo sia l'ultimo stronzo. Prego, prego. Comunque, volevo dire questo, insomma, no, ma realmente, no, per quanto riguarda il futuro, no, visti i presupposti, visto quello che sta che è successo e sta succedendo, no, voi che tipo di collocazione proprio su avete? Su che binario andate? Cioè, su che binario camminate voi, insomma, no, non politicamente parlando, anche musicalmente parlando, insomma, no? Musicalmente visto che c'è anche un esaurimento proprio di quelle che sono le idee. Ma musicalmente, quando ci sarà l'esaurimento, il banco sarà esaurito. Cioè, io, che te devo dire? Francetti, che ti dico una cosa molto semplice, insomma, no, ma sono divertito più due sabati, mi sono divertito più due sabati fa, no? Al Music Hill, dove si faranno le pippe, no, Music Hill, al Murales, dove si faranno anche le pippe, se vogliamo. Però ha suonato Massimo Urbani, no? Con quattro persone dietro, c'hanno le palle quadrate, secondo me, no? Hanno fatto musica totale, io sono letteralmente sballato ascoltandoli, e stasera non sono sballato. Cioè stasera vi ascoltavo, non era la cioè, mia dico, intenzione. Cioè voi dove volete arrivare? Non, ma infatti non è mia intenzione sballarti, è mia intenzione... No, non è che dico, mo. Uno se non si sballa non è bello il concerto. È mia intenzione non sballarti, fare cose, insomma, è intenzione avvicinarmi, cioè farti capire che impegnarsi non significa essere sballati, ma... bene o male raziocinare un tantino di più. Vabbè, ma infatti se nessuno vuole sballamento, capito? Io se tu vuoi sballamento il banco del soccorso non scusa, te lo dà. Ma raziocinio è pure rifiutando 2500 lire in poste d'azzardo e andare piuttosto a Murales dove fanno la musica a 500 lire, ma capito? D'accordo, ma questo qui è raziocinio. D'accordo, scusa, ma aspetta, no, un momento. Un momento, bisogna vedere una cosa, no? Massimo Urbani suona al Murales dove io ho fatto quell'intervista che voi sentite. Abbiamo fatto lì a Mona. Suona per chi? Suona per 40 persone, suona per 50 persone. Anche il Badon con il soccorso quando fare però a Marino vengono 20 persone, 30 persone, ascoltano, se ne vanno, si divertono, non si divertono. E quando questa struttura esce fuori e va a vivere di questo lavoro che certamente... No, ma questo qui è solo un seme, capito? Volevo porre è un taglio, perché Murales potrebbe essere anche il doppio di quello lì perché se Murales sarebbe il quadruplo, parte che non sarebbe più Murales, ma vedrebbero chiaramente una situazione, perché queste persone che stanno lì a suonare non possono più suonare 10 minuti gratis o mezz'ora gratis o 3 ore gratis per gli amici, capito? Francia, io volevo spostare l'asse della discussione proprio sul musicale, insomma, no? Cioè dico, nei momenti in cui si arriva al punto che io che ho comprato caterve dei dischi non ne compro più, almeno certi, perché non mi dicono più niente, insomma, no? Non li ascolto perché sono ripetitivi, perché certi fraseggi ormai li conosco a memoria, insomma, no? Dico, voi che siete musicisti per cui certi problemi li avete molto più di mezzo, che ce li dovete vivere, o quantomeno che vi interessa moltissimo, insomma, no? Dico, com'è che vi ponete rispetto proprio alla prospettiva, al futuro, insomma, ma visto che esce gente che ti fa della musica estremamente semplice, molto libera, cioè è gente che ha una tipo di sensibilità diversa, è che io non ti posso impedire di fare. Togliamo la curiosità. Cioè tu prima hai detto, Massimo Urbani fa la musica totale. Cioè, qua? Spiegami che cosa vuol dire. Cioè non la conoscevo, a me è stata una novità. Pure vabbè, ma ascolto, sì, vabbè, ma scusa un attimo, che cosa vuol dire fare la musica? Cioè lui cosa ha fatto? Si è presentato sul palco e ha detto ragazzi adesso vi faccio la musica totale. Ma si è messo a suonare. Che cos'è la musica totale? Guarda, è un qualcosa per farmi capire che a me è assurdo. È assurdo. È assurdo. Questa definizione è assurdo perché spersonalizza, capito? Questo sono d'accordo con te.